fuoco la città. Gradazione d'alcol mi distrugge un po' e non so che cosa fare quando finirà. Un po' e non so che cosa fare quando finirà.